Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Da tempo visitavano le abitazioni dell'Alta Valle e facevano razzia di contanti, oggetti in oro e apparecchi elettronici, tanto che negli ultimi tempi gli abitanti avevano alzato la guardia di carabinieri e aumentato i controlli. Erano conosciuti come la banda del forellino, che effettuava un piccolo foro negli infissi dove inserire uno strumento metallico con cui sganciare sistemi di chiusura posti all'interno. Hanno seminato il panico in tutta la valle, ma nella notte tra venerdì e sabato i militari della stazione di Cevo, in collaborazione con quelli di Bezzadoglio del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Breno, hanno tratto in arresto due di loro, un 39enne e un 31enne, entrambi cittadini di nazionalità albanese, senza fissa dimora, pregiudicati per reati contro il patrimonio e furto aggravato in abitazione. Lo so, i due avevano appena passato... La banda del forellino non vi fa dormire sonni tranquilli, perché è rimbalzata sui giornali come fosse una clamorosa notizia. Una nuova tecnica per svaligiare le case. La banda del forellino ha messo sotto scacco un'intera vallata. Ma io veramente, facendo una rassegna su una ricerca banda del forellino, ho visto che già dal 2010 Bergamo un buco per aprire le serrature e lo spray per addormentare le vittime, già decine di furti in Val Gandino. Evidentemente questa del forellino non è una cosa nuova, ma è una cosa che probabilmente ha ripreso piede. So che siete molto preoccupati del fatto che possano entrare persone in casa, abbiamo spesso trattato questo problema, oggi continueremo a trattarlo, però vorrei questa mattina un conforto dagli ascoltatori. Vorrei che qualcuno mi aiutasse a tracciare una mappa storica di questa banda del forellino. Quanti avete subito un furto con la tecnica del forellino, o se avete avuto furti con astruse analoghe tecniche? Questa è la mattina per dare informazioni e per dare elementi di tutela alle persone che ogni giorno dormono con un occhio solo perché pensano qualcuno possa entrare dentro casa. Devo dire che dai dati proprio dal Sole 24 Ore qualche giorno fa, i furti in casa, o una suddivisione provincia per provincia, preoccupano. Prendo una provincia a caso, la provincia di Bergamo ha subito 1771 furti in un anno in casa, e quindi è 16 furti, 4 ogni 10.000 abitanti. Sono cifre che comunque fanno pensare. Il problema è che la crisi sta acuendo la capacità e l'acume delle persone che pensano che ciò che non si può procurare attraverso le vie canoniche regolari si possa procurare con atteggiamenti furtivi. Stanno calando anche alle nostre latitudini bande specializzate che vengono da paesi dove hanno avuto modo di mettere a punto tecniche sopraffine di furto in casa, ma probabilmente poi le regole sono sempre quelle basilari per potersi in qualche maniera salvaguardare. 800 24 0024, l'argomento all'attenzione è la banda del forellino. Angelo Gaffurini e la moglie Maristella sono le prime vittime bresciane della banda del forellino. La coppia di albanesi, zio e nipote, Beshkim e Edi Sollaku, di 43 e 31 anni, arrestati dagli uomini della questura e autori di almeno una quindicina di furti in abitazioni in tutta la provincia, dal 17 febbraio al 26 aprile. Usavano sempre la stessa tecnica, quella del forellino appunto, diventata la firma su ogni colpo. Sì, in effetti una vera e propria firma. È stato sempre rinvenuto un forellino all'altezza della maniglia delle portafinestre o delle porte d'ingresso di queste abitazioni. Sì, hanno, per entrare hanno fatto un forellino nell'infisso di legno e poi con una cacciavite, qualche cosa, insomma, sono riusciti a aprire la maniglia. Sempre insieme per i furti lontani. Cerchiamo di capire innanzitutto come funziona la tecnica del forellino. In pratica è facile poi a posteriori individuare perché la banda del forellino lascia il suo segno preciso. Mirella, buongiorno, prima ascoltatrice colpita dalla banda del forellino. Ci parli del suo forellino? Sì, buongiorno. A me è capitato parecchi anni fa, circa una quindicina. Aspetti che spengo la radio, mi scusi. Sì, sì, no, tanto l'altro tempo. Non avevo l'antifurto ancora, dopo, sempre succede dopo, ho messo un antifurto, però con la mia amara sorpresa, una mattina quando mi sono alzata, ho trovato tutto questo quadro, il soggiorno, perché io abito in una villetta schiera, e sono entrati dall'esterno proprio all'altezza della maniglia interna della serranda, e c'era un piccolo foro. Quanto era grosso il forellino, più o meno, per capire? Più o meno. Quanto era grande il forellino? Ma non lo so, poteva essere la punta di un dito. Un dito, quindi una punta da otto facciamo. Adesso le diametri... No, per capire, sì, è importante. Sì, no, ma era molto piccolo e si capiva che da quel forellino avevano agito sulla maniglia... Più forza della da 12, va, il dito è una punta da 12, sì, più E cosa. Poi non solo, ma siccome io sono su due piani, per non dire tre, non avendo sentito niente, hanno rubato altre cose nelle altre camere da letto. E sempre facendo il forellino? No, sono saliti nelle camere. Io non ho sentito niente e presumo che mi abbiano spruzzato qualcosa. Quindi è come ho letto nell'articolo del 2010 che avvenne appunto sempre in provincia di Bergamo, che dal forellino sia entra l'attrezzo furtivo, cioè necessario allo scasso, e sia diciamo il gas spray per addormentare le persone. Sicuramente può essere successo. 800 24 00 24, mi piacerebbe che stamattina raccogliere testimonianze sulle vittime della banda del forellino. Intanto abbiamo un esperto che ci spiega perlomeno dal punto di vista tecnico come si agisce sulla serratura, sulla porta, facendo appunto questo forellino. Marco Ferrarini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Marco Salve. Ferrarini è titolare della Ferrarini Porte Blindate SRL di Parma, tratta sistemi di sicurezza per la casa. Innanzitutto, cronologicamente, la storia del forellino non è una cosa di questi ultimi giorni, già da prima se ne parlava. No, assolutamente, diciamo che è un metodo di scasso abbastanza comprovato, soprattutto sulle finestre. Ultimamente va di moda, tra virgolette, anche sulle porte blindate e non, in particolar modo quelle a cilindro europeo fatte un po' malaccio, nel senso con dei materiali di scarsa qualità, chiaramente. Cioè roba parecchio... cinese, diciamolo chiaramente. Ecco, non volevo dirlo, l'ha detto lei, quindi diciamo che al giorno d'oggi non è la situazione non è delle migliori, visto che purtroppo... Allora capiamo, diamo le informazioni per grado. Allora, quando si fa una porta blindata, assicurarsi che siano materiali, diciamo, di prima qualità, perché magari costa meno, ma una porta non costruita con il materiale giusto è vulnerabile alla banda del forellino. Certo, assolutamente. Questo è fondamentale, affidarsi dei professionisti e non al primo spazio di casa che passa sotto casa e vuole eventualmente modificare la porta blindata esistente, piuttosto che prima porta blindata che compra nel primo centro commerciale, giusto per essere chiari. Che si buca come niente, naturalmente. In linea di massima è fondamentale affidarsi a dei professionisti e non a un personale qualunque che poi le fa, diciamo, le cose fatte un po' alla carlona, come si dice. Anche perché, diciamo, fare un foro con un trapano in una lastra blindata, sia di cattiva o di ottima qualità, richiede tempo, anche fa rumore, secondo me, non è una cosa... così immediata. Sì, ma più che richiedere tempo e fare rumore richiede destrezza. Diciamo che il ladro che effettua il forellino nel cilindro europeo di una porta blindata è un ladro di una certa competenza e non sicuramente un ladro occasionale, ladro ladruncolo da quattro soldi. Questo è un professionista che si è messo a studiare le serrature, che si è messo a studiare come aprirle, ma è anche chiaro che se ha ben presente come è costruita la serratura e come è costruita la porta blindata, in particolar modo se gli hanno fornito un cilindro, anche cilindro europeo che sia, ma un cilindro da 3 euro, 4 euro, 5 euro, una roba cinese, salta, è chiaro subito che non ha la stessa sicurezza di un cilindro europeo di sicurezza corazzato, di quelli con magari il funzionamento radiale. Che allora, fermo un attimo, Ferrarini, fermo un attimo perché stanno incombendo decine di telefonate, sembra che il forellino abbia veramente preoccupato e anche contaminato molte persone. Bruno, buongiorno. Buongiorno. Anche lei vittima del forellino? Sì, ma 20 anni fa. Ah, vede, allora, segue la nostra linea, che in realtà il forellino non è che se lo sono inventato oggi. Sì, cambiano, sì, esatto. Le porte, oggi si è specializzato su porte più raffinate. Lei dove l'hanno fatto il forellino? Su una finestra. Ah, ecco, come diceva il nostro. Sul legno ha fatto un foro da, io direi più da 10 più o meno. 10-12 abbiamo detto, sì, più o meno. Sì, ecco. E con un meccanismo che poi la questura l'aveva, voleva anche farmelo vedere, mostrare, poi l'hanno perso, non so. Ma la questura di Vicenza conosce quella tecnica perfettamente, hanno anche l'attrezzo che è stato usato. Ma l'ha visto lei l'attrezzo, come funziona? No, purtroppo no, non l'ho visto. Adesso vediamo se lo descrive il nostro ospite, l'attrezzo misterioso. Aspetti, Antonino, buongiorno. Buongiorno, anch'io avevo, nel 2010, ho avuto un furto in casa con me che dormivo, col buco. Antonino, nella... colpito col forellino, anche lei. Anche... colpito col forellino, mi hanno addormentato perché poi ho trovato proprio la bomboletta che hanno su, forse perché era vuota. E cosa c'era scritto? Sulla bomboletta cosa c'era scritto? Non mi ricordo più, ero anche stonato perché mi sono svegliato con un mal di testa enorme e mi hanno colpito. Beh, però io secondo me pensavo, perché siccome era morta mia moglie da poche settimane, e pensavo che avessero anche dei appoggi nei paesi, perché come fanno, cioè io abito, sì, abito al primo piano, è già alto 3,5 metri. Qualcuno l'avrà sicuramente avvertiti che si poteva venire a essere da solo e essere che facevo anche c'era un momento diciamo particolare in cui non era perfettamente e adesso 15 giorni fa anche a mio fratello la stessa cosa con il forellino e sono entrati in casa, gli hanno svaligiato la casa, non hanno preso niente di valore, però hanno buttato tutto per aria e per dispetto gli hanno rotto un po' di soprammobili, per dispetto perché non hanno trovato quasi niente. Sì, perché se non trovano i soldi fanno cose indominabili, fanno rifiuti umani sopra i letti. Quello che mi lamento io è che quando hanno rubato a me, poi per via delle cose qualcuno mi ha detto no, guarda che abbiamo preso quelle della banda del buco, qualcuno e mi hanno detto che poi dopo 2 mesi erano fuori di nuovo e avevano svaneggiato migliaia di case a Bergamo e anche qui a Madone dove sono io. Allora, ci fermiamo un istante, dobbiamo dare la linea al traffico anche se incombe l'attenzione e la pressione del nostro pubblico che deve rivelare quello che è il passaggio, la transumanza furtiva della banda del forellino. Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, eravamo stati colpiti in una serie di titoli di giornale, parlava di nuova tecnica che si diffonde tra i ladri. Stiamo capendo e comprendendo che da anni si ruba facendo un forellino sulla imposta di legno nella prima generazione di salvaguardia alla privatezza delle abitazioni e facendo un forellino, come ci sta dicendo il nostro ospite, anche sulle porte blindate, ma quelle naturalmente di scarsa qualità. Sentiamo due ascoltatori, poi torneremo con Marco Ferrarini, ricordo titolare della Ferrarini Porte Blindate SRL di Parma, che ci spiegherà esattamente come difendersi poi dalla banda del forellino che sembra così accanita nel turbare i sonni dei nostri ascoltatori. Stefano, buongiorno. Buongiorno, salve, io sono un rappresentante delle forze dell'ordine e volevo un attimino fare chiarezza sul discorso del forellino. Ecco, dunque, il forellino è una tecnica un po' desueta, attualmente si adottano tecniche molto più veloci, un po' più rumorose, ma sono molto più efficaci. Ce ne dica così almeno aggiorniamo anche l'informazione. Non è il caso di svelarlo direttamente, sarebbe controproducente, sarebbe pubblicizzare. Sì, ma senza entrare in merito a come fanno. Esatto, lei conti che l'esecuzione è di circa 2-3 minuti al massimo di un furto. Anche in presenza di allarme, questo diventa del tutto, l'allarme diventa praticamente richiede apparecchiature particolarmente sofisticate? Assolutamente no, un semplice attrezzo. Il tubo, quello lì che abbiamo visto, il tubo quello lì che... Guardi, le dico soltanto che in certi appartamenti, anche al terzo o quarto piano, ci sono degli arrampicatori, si arrampicano sulle grondaie e forzano le finestre dall'esterno, quindi anche una porta blindata, purtroppo, ahimè, per i venditori di porte blindate. Sì, anche però statisticamente la maggior parte dei ladri, lei lo sa, che entrano dalla porta, è chiaro che poi per ripiego entrano dalle finestre. Questa statistica non so com'è fatta, la mia esperienza personale è che su abitazioni private la maggior parte delle entrate vengono fatte attraverso le finestre che sono meno blindate delle porte. Ma guardi, qualsiasi tipo di finestra è violabile in tutte le direzioni, in tutte le salse, in un minuto al massimo. E volevo smentire, però, se mi permette, la cosa dell'addormentamento dei soggetti. Sì, è purtroppo una leggenda metropolitana che facciamo fatica a sradicare. Io infatti scherzavo con l'ascoltatore, dicevo, ma scusi, sulla bomboletta c'era scritto gas per addormentare. Sembra non abbiamo mai rinvenuto, io in 20 anni non ho mai rinvenuto addosso ai ladri, quando li troviamo, mai rinvenuto nulla. Quindi Volevo sfatare questo mito. Purtroppo le persone si svegliano con mal di testa, perché vorrei vedere se uno le ruba in casa e non se ne accorge, se le viene il mal di testa. Poi diciamo assolve, capisce? Un pochino i sensi di colpa, dice mi hanno addormentato, non ho fatto nulla per questo. Esattamente, serve per autoassolversi, ma è normale, le persone Senta, solo quello che lei può dirci dalla sua esperienza. Ci sono bande specializzate che studiano, perché il costruttore di porta ha detto richiede uno studio sulle serrature per poterle forzare. Allora, se c'è uno studio sulle serrature vuol dire che l'obiettivo dentro è molto importante, altrimenti sono bersagli casuali e sono soggetti, diciamo, che lavorano do coio, ecco, parlandoci chiaramente. Tanto per loro è facile, sentano in un minuto, possono entrare, vedere, andarsene, si accontentano. Guardi, un allarme può avere l'allarme più sofisticato del mondo, questi entrano, fanno scattare l'allarme, 3 minuti, vanno in camera da letto e prendono quello che devono prendere, scendono e se ne vanno. Anche perché Stefano, io che abito in un centro cittadino, io ne sento suonare a decine la notte gli allarmi, non succede mai nulla. Perché... E quindi è che sono a fare... Anche se è collegato con le forze dell'ordine, bisognerebbe che la pattuglia fosse sotto casa, e se sta già a 1 chilometro, tempo che arriva, questi sono già andati a gambe. Capisce? Allora, resti un attimo Stefano, potrebbe esserci ancora utile. Marco Ferrarin, alla luce di quello che ci ha detto il nostro ascoltatore, tutore dell'ordine, vediamo di capire un po' esattamente il massimo di sicurezza possibile, considerato che poi... di sicuro al 100% non esiste nulla. È vero che le finestre sono meno salvaguardate delle porte? Assolutamente sì, confermo quello che ha detto la gente, dicendo che sicuramente, visto che in un'abitazione ci sono in media 5, 6, 7, 8, 10 finestre e una porta d'ingresso, è chiaro che la vulnerabilità delle finestre, soprattutto piano terra, primo piano o ultimi piani, o dove si hanno delle porte a balcone, è incisiva, ma decisamente incisiva. Sempre perché è più facile per un ladruncolo da 4 soldi scassinare la finestra e quindi sollevare la tapparella, forzare lo scuro, forzare il serramento interno con 2 semplicissimi cacciaviti. Tante volte non serve neanche fare questo buco di cui si parla, perché basta con un cacciavite sollevare il serramento e con l'altro spingerlo dentro, e se il serramento non è minimo d'acciaio, o quindi il ferro, il materiale pesante, neanche d'alluminio, perché purtroppo non si raggiunge sicurezza neanche con l'alluminio, non si ottiene sicurezza. Quindi confermo assolutamente che il punto più vulnerabile di tutti sono le finestre. Senta, sulle tecniche più nuove, che non ci vuol dire per esigenza di servizio la gente, senza dare consigli ai ladri, esiste veramente dell'attrezzatura specializzata oggi per forzare le porte? Allora, se mi permette, le faccio un attimo di chiarezza. Esistono 2 modalità di apertura di qualsiasi tipo di porta, in particolar modo parliamo della blindata. L'apertura con destrezza, quindi il tecnico, quello che ha, si è messo e ha perso ore e tempo, e giustamente, come diceva il signore delle forze dell'ordine, sa già che cosa andrà a prendere all'interno dell'abitazione. Cioè furti. Oppure mirati su un bersaglio che valga la pena di rischiare. Esattamente, quindi sanno già cosa c'è in cassaforte, giusto per essere chiari, per dare un'idea, o che cosa possono trovare all'interno dell'abitazione un qualche purtroppo anziano che esiste ancora, che ha la scatola di scarto piena di soldi in contanti. Esistono purtroppo ancora, ed è per questo che ogni tanto ci sono questi furti anche con destrezza, in particolar modo quando non si vogliono far particolarmente vedere / sentire. Ma una volta abbiamo parlato del famoso grimaldello bulgaro, poi ci sono degli attrezzi che hanno dei nomi fantomatici, ma esistono davvero? Ecco, questi sono attrezzature che le utilizzava un tempo solamente l'apriporta per aprire la porta in caso di emergenza, appunto con destrezza, e l'apriporta perde giorni, ore, ore e ore sulle serrature per riuscire a capire come fare ad aprirle, e non è assolutamente così semplice come si vede su internet, è vero, però esistono degli strumenti tali che se uno si mette con destrezza a imparare, così come ha imparato l'apriporta, fatto una serratura, trovata la chiave. Se uno ne fa un mestiere, chiaro. Chiaro, studia e si forma su questo. Ed questo è qui che chiaramente l'incidenza del prodotto che viene installato sulla porta e come viene realizzato il lavoro ne comporta le differenze sostanziali su un'apertura con destrezza o meno. Più è, diciamo, cinese, come diceva lei, il prodotto che andiamo a montare, più l'apertura con destrezza è facile. Più risparmiamo, più è facile. Ecco, c'è da dire un'altra cosa. A volte mi capita, siccome sono smemorato, di chiudere il portone e lasciare la chiave dentro. È una porta super blindata con 20 serrature. Viene il signore, me l'ha installata, la apre in 0 nanosecondi con una cartina una pellicola di cellophane. Ecco, certo. Va sempre chiusa la porta, se non ti compare una porta che costa tanto se uno non gira la chiave. Allora, per essere chiari, la normativa che ci fa fare i collaudi alle porte blindate, che ne determinano la classe antieffrazione, che non prevede, metto una parentesi, nessun tipo di sicurezza per quel che riguarda l'apertura con destrezza e quindi sulla serratura con metodi appunto di apertura con grimaldelli piuttosto che con strumenti sofisticati, questa la normativa non lo prevede. La normativa che ci permette di classificare la porta in classe 2, classe 3, classe 4, sì, che è la 1627 secondo le... Se no non facciamo in tempo a dirlo. Ecco, allora quindi... La normativa prevede solamente un tempo di scasso con, diciamo, forza, con brutalità fisica, quindi viene previsto solamente lo scasso violento. È chiaro. Quindi buona norma è comunque girare sempre la chiave nella toppa quando ci se ne va, se no è inutile fare una porta blindata. Grazie Valerio Rocchetti, grazie Fabrizio Intonti, grazie agli ospiti e agli ascoltatori.